viaggiare nel mio tempo e poi aiutarmi con la fantasia, cercare nel passato noi descritti in una poesia, sentire indietro l'eco di un momento, viverlo ancora. Qualche foto parlerà di noi, tornare alla nostalgia, racconterà di noi per farci compagnia, immagini ancora nel vento dei ricordi per volare via. Stare ancora qui, ricordando noi, e rivivere un momento, dare ali al sentimento, puoi. Giorni fatti per l'amore, tornati come per magia, il mare con il suo colore, un bagno di poesia, poi pagine d'amore, in un ricordo, tornare ancora. Siamo ancora qui, uno sguardo e poi dare spazio al sentimento nel ritorno di un momento ancora. Dipingere il mio tempo, dare il senso della vita, regalo di un momento per renderla infinita, quando siamo qui. Siamo solo noi, in un effetto strano, tenendoci per mano ancora. Scorre ancora il tempo e poi non serve la fantasia, sentiamo qualche volta noi nei momenti di malinconia, vivere la voce ancora, altri momenti, trovarsi ancora. Siamo ancora qui per sentirci ancora. Poi l'abbraccio di una sera, come sogno, storia vera, siamo noi. Qui nel nostro tempo, mentre scorre questa vita, per dipingere un momento di una storia che è infinita, quando siamo qui, siamo solo noi.